Ben ritrovati, sono Livia Napolitano. Siamo giunti all'ultima tappa del nostro Safar viaggio a chilometro zero nella regione Campania. Per salutarvi ci siamo spostati nell'estremo lembo occidentale dei Campi Flegrei, il monte di Procida. Da qui, traghettando il canale di Procida e costeggiando Capo Miseno con il suo faro, il golfo di Baia con il suo castello aragonese, si raggiunge appunto l'isola di Procida, quella a me più cara. Questa è l'isola di Arturo, il romanzo di Elsa Morante, che ne descrive così le sue bellezze. Ah, io non chiederei di essere un gabbiano né un delfino, mi accontenterei di essere uno scorfano, che è il pesce più brutto del mare, pur di ritrovarmi laggiù a scherzare in quell'acqua. A quest'isola mi legano ricordi di infanzia, e qui che ho imparato a nuotare. Questa è l'isola resa poetica da Troisi. È qui infatti che ha registrato alcune scene del Postino, precisamente nel borgo marinaro seicentesco di Marina Corricella, che sembra un piccolo presepe con le sue case color pastello, le scale in muratura e il mare di fronte. Procedendo la navigazione giungerete all'Isola Verde, Ischia, la più antica colonia della Magna Grecia. Pensate che il suo porto sorge su un cratere diventato lago che per avere lo sbocco al mare fu aperto su un lato. È chiamata appunto Verde per la natura rigogliosa e la bellezza delle sue spiagge, come ad esempio Carta Romana, famosa per la presenza di particolari scogli neri di roccia vulcanica e per il fenomeno delle terme marine. Qui, infatti, anche in pieno inverno, è possibile bagnarsi in acque calde che sgorgono da sorgenti termali. E ancora attraverso il mare giungerete a Capri, che Jean-Paul Sartre definì sacra, e disse che qui l'obiettivo non è vederla, ma avvertirvi una certa qualità d'emozione. Appunto il suggerimento che mi permetto di darvi se venite a Capri è di non cercare la mondanità della famosa piazzetta, ma di vivervi l'emozione tangibile che quest'isola vi dona. Con i suoi profumi sarete infatti avvolti dall'odore di fiori d'arancio e quello dei pini marittimi che si mescoleranno a quelli del pesce e del mare. Continuando poi la navigazione tra le insenature del mare color smeraldo, giungerete sulla costa opposta da quella dove siamo partiti. In direzione Punta Campanella potrete ammirare i piccoli villaggi della costiera amalfitana. Nell'escursione in costiera non può mancare la visita alla Grotta dello Smeraldo e un tuffo al largo dell'arcipelago degli Galli, dove, ricordate, vivevano le famose sirene. Ma questa è una storia che vi ho già raccontato. Ed è appunto dal mare che volevo portare il mio saluto, leggendo una citazione di Marcel Proust. L'unico viaggio verso la scoperta non consiste nella ricerca di nuovi paesaggi, ma nell'avere nuovi occhi.